programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E siete frizzanti anche voi, perché qui bisogna tirare un po' su le sorti, diciamo, di questo paese, di questo clima, di quello che succede, e anche per essere subito pronti a dare i vostri commenti liberi sui fatti della settimana. Lo sapete, chi non lo sa, io lo dico adesso, cioè, se dovesse essere in ascolto per la prima volta colpevolmente, ma comunque insomma meglio tardi che mai, non ci sono più le mezze stagioni, è il nostro spazio, mio e vostro, e poi ogni volta di un opinionista estemporaneo diverso, per commentare insieme liberamente i fatti della settimana. E anche è un modo per fare un resoconto, un promemoria dei tanti fatti accaduti, e anche per capire un po' qual è l'opinione, quali sono i pensieri delle persone che comunemente, insomma, come tutti ascoltano, leggono e si fanno un'idea delle cose che avvengono. 800 24 0024, il numero verde al quale potete telefonare gratuitamente, liberamente, per esprimere le vostre opinioni. 800 24 0024. Tra i tanti fatti ve ne ricordo come sempre giusto qualcuno, un brevissimo riassunto. Allora, inevitabili gli sviluppi sulle indagini, sulla tragica vicenda della Costa Concordia, con altri corpi recuperati, con qualche lieve buona notizia sul fatto che per adesso la catastrofe ambientale non c'è, bisogna vedere se poi si riesce a fare tutto nei tempi necessari, e altre intercettazioni che riguardano il fulgido Schettino, che pare abbia detto a un amico al telefono poco dopo la tragedia, mentre era lì appunto in questura: quando ho visto che la nave si inclinava ho preso e sono sceso. Insomma, la prima cosa naturalmente che un comandante fa, di solito fanno i topi, appena la barca affonda sono i primi che scappano. Poi Fitch, l'agenzia, queste famigerate agenzie di rating internazionali che declassa nuovamente l'Italia, non solo l'Italia, ma a noi ci interessa soprattutto ovviamente il nostro paese, anche se Monti ieri, Presidente del Consiglio, ha detto: accolgo queste notizie ormai del declassamento delle agenzie di rating con distaccata serenità. Vediamo se anche noi ci riusciamo con distaccata serenità. E poi c'è stato il decreto semplificazioni. Pare che, insomma, tante leggi vengano eliminate, la burocrazia possa essere un po' più leggera, non sarebbe male, visto che è un bubbone di questo paese. E Bossi che ritorna alla carica, anche se qualcuno dice comincia a scricchiolare, evidentemente la leadership qui si abbassa, allora urla più forte, direte voi, so se siete d'accordo, che dice a Berlusconi: sei una mezza cartuccia. E Berlusconi risponde, perché dice: o fai cadere il governo o noi facciamo cadere il governo della regione Lombardia, quindi Formigoni e tutti i suoi. Berlusconi che risponde: no, rimango a sostenere Monti perché è senso di responsabilità. Continuano nel frattempo le proteste, tir, forconi, gli scioperi dei treni, insomma un putiferio generale. Il terremoto, possiamo parlare di un terremoto padano per la prima volta, non so se rientra nella definizione, anche è stato sentito a Bolzano, ma mi chiedo i confini, insomma, ancora non ho capito. Comunque, e poi gli evasori scoperti, migliaia, si parla di 20.000, tra persone completamente ignote al fisco, tra malati immaginari, quanti soldi hanno rubato lo Stato, e quindi a noi, a chi paga i contributi regolarmente, le tasse, le imposte, eccetera eccetera. Il giorno della memoria, naturalmente, ieri il 27 gennaio a livello mondiale, per ricordare la Shoah e questa tragedia immane, insomma, che ancora evidentemente a molti non insegna tanto. Comunque, vogliamo anche ricordare, come sempre un rito qui a Non ci sono più le mezze stagioni, che cos'è che anche questa settimana ci conferma che effettivamente qualcosa c'è di nuovo, che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Voi sapete che nella vita, nell'esistenza umana, da quando esistono le assicurazioni, uno ha assicurato di tutto, naturalmente molto più banalmente la vita, la casa, la macchina, però poi ci sono anche persone, personaggi in particolare, che magari hanno assicurato, che so, la mano, il braccio per uno sportivo, un tennista, le gambe, anche le labbra, gli occhi, i capelli, no? Se fanno parte diciamo centrale, peculiare del tuo mestiere. Ebbene, c'è una novità: un attore di 28 anni, essendo attore porno, ha assicurato per $1 milione, come possiamo definirlo, il suo strumento, diciamo, di lavoro, ecco, per $1 milione, si chiama Kieran Lee, è residente a Los Angeles e ha affidato il suo pene ai grandi Lloyds di Londra, che in passato hanno già assicurato le corde vocali di Bruce Springsteen, niente proprio di meno, di Bob Dylan, le gambe di David Beckham, no, il calciatore. E a fare pressione su di lui, su questo attore porno, pare sia stata la sua casa di produzione. Dice: qua se no ci mandi in malora se succede qualcosa. E dice: la parte peggiore, dice questo attore, è che se succede qualcosa i soldi vanno a Frank Lipari, il mio boss, se io perdo il mio membro. Che io non ho capito bene come si fa a perdere, nel senso che qualcuno glielo accetta, qualcuno va lì, si distrae e cade, non ho capito bene. Comunque, visto che i soldi andrebbero scusate, un po' di fisica, andrebbero al suo boss, io avrei un po' paura che questo boss prima o poi nella notte viene lì e per, diciamo, riempire il suo portafoglio e stacca qualcos'altro. Però diciamo che tutto questo poi la sua ragazza, che a sua volta lavora in, diciamo, in questo campo, e quando ha saputo la notizia ha esclamato: solo $1 milione? Per me, baby, non ha prezzo. Ecco, diciamo, la solita generosità delle donne. Benissimo, ma adesso torniamo sugli altri fatti della settimana. 800 24 00 24, e ovviamente vi presento, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi. Marcello Veneziani. Evviva. Caro Marcello, evviva, evviva riaverti qui. Marcello, giornalista, scrittore, editorialista del Giornale, che cosa hai assicurato tu di particolare? No, io sono un fatalista, non assicuro nulla, ma devo dire, in effetti ho sentito con apprensione questa notizia. Vero. Anche perché se dovesse appunto il suo socio decidere di staccare l'assegno subito, sarebbero dolori. Staccherebbe qualcos'altro prima dell'assegno, chiaramente. Ma insomma, insomma è una roba un po' vero, rischiosa. Marcello, dice che sei fatalista, ma tu invece hai scritto un libro di recente sul destino, mi ricordo benissimo, l'hai presentato anche qui. Sì, un paio d'anni fa. Come si combinano? Come si combinano queste cose? Uno è fatalista, sì, proprio del destino. È perfettamente coerente con quel libro, perché io in quel libro facevo, come dire, una specie dell'elogio del fatalismo nel senso positivo, cioè quindi che la strada è scritta, insomma, ecco. La strada è scritta, e quindi affidiamoci a quello che è il nostro percorso. Quindi voglio dire, sono coerente con quel libro nel dire che da fatalista preferisco non assicurare niente, insomma. Senti, ma secondo te, Marcello, è vero che mezzo paese lo vuole strozzare, vuole strangolare? Mezzo paese? Lo vuole strozzare. A chi ti riferisci? Bossi ha detto che mezzo paese vuole strangolare Monti, e se Berlusconi non si decide a farlo cadere, poi lui fa cadere Formigoni. Secondo te è vero che paese... sì, è vero, anche se devo dire che c'è un disagio vastissimo, ma non è personalizzato, ecco, non si è ancora accentrato su Monti. È un odio, come dire, generico nei confronti della classe politica e di Monti insieme, del governo nel suo complesso e dei suoi mandanti. Quindi è difficile personalizzare, ecco, a differenza di Berlusconi, che era riuscito, per merito o per colpa, a catalizzare tutte le responsabilità su di lui, Monti non è ancora il parafulmine nazionale, non è ancora il capro espiatorio di tutti, e quindi credo che non ci sia ancora quell'accanimento anti-Monti che ravvisa Bossi, che trasferisce appunto su Monti un disagio che invece è reale, molto diffuso. Senti, hai detto i mandanti di questo governo, chi sono i mandanti? Beh, i mandanti nel senso di coloro i quali hanno voluto questo governo, e quindi? Voglio dire, da mandanti internazionali che possono essere individuati in Germania o in grandi banche internazionali, al Quirinale, alle forze politiche che lo hanno sostenuto subito, ovviamente è un'espressione un po' colorita e forzata per sottolineare comunque l'aspetto di sospensione della democrazia che noi ancora una volta abbiamo vissuto, non è la prima volta, accade ai tempi di Ciampi, di Amato, è accaduto altre volte, cioè quando la democrazia e la politica e il Parlamento non riescono a esprimere, diciamo, valori omogenei a grandi interessi internazionali, nasce questa sorta di commissariato per cui appunto arriva un tecnico o un semitecnico e decide di traghettarci. Speriamo che questa volta sia, come dire, un traghettamento fuori dall'emergenza, perché ancora ci siamo dentro. Ecco, se tu dovessi dire, Marcello Veneziani, la cosa che più ti scontenta per ora del governo Monti? Ma mi scontenta il criterio con cui sono stati adottati questi tagli, questa manovra. Cioè, voglio dire, non c'era bisogno di avere dei tecnici per fare un maggiore prelievo fiscale, così come termini importanti come liberalizzazione o anche quello più recente, semplificazione. Beh, uno si aspetta, come dire, riforme più strutturali. Queste è bene che siano fatte, intendiamoci. Cosa, Marcello? Quali sarebbe una riforma più strutturale? Voglio dire, c'è tutta una macchina della burocrazia italiana, dello Stato italiano, che rende difficile la nostra vita, troppi passaggi. Ecco, per ora si è toccato un po' in periferia, così come è accaduto con la liberalizzazione delle categorie. Cioè, ci sono settori come le banche, le assicurazioni, l'alta burocrazia, la politica naturalmente, che dovrebbero avere, diciamo, un intervento pubblico atto ad alleggerire il peso di questi privilegi. E invece se la sono presa con gli edicolanti, con i tassisti, con categorie, insomma, che oggettivamente, oltre a non dare grandi introiti con le liberalizzazioni, sono anche categorie minori quantitativamente, cioè non possono costituire un obiettivo per combattere le caste, insomma, non sono caste, insomma. Ecco. Effettivamente, Marcello, anch'io mi chiedevo che fine hanno fatto i tagli ai costi della politica, no? Ne avevamo parlato con Sergio Rizzo anche di... Sono stati rimandati alla prossima settimana, cioè nel senso che i due presidenti di Camera e Senato avevano assicurato che entro la fine di gennaio avrebbero portato questo pacchetto, e quindi si dice che la prossima staremo vigili, portato, sì, però ho l'impressione che appunto ci sarà molto fumo negli occhi, poca sostanza, perché i preliminari non sono stati incoraggianti. Infatti, poi leggevo, citavo Sergio Rizzo appunto, che ha scritto insieme a Gian Antonio Stella tanti libri sulla casta, a partire appunto da quello, la casta, è stato spesso qui opinionista estemporaneo e abbiamo fatto anche una puntata inizio gennaio, ma leggevo un articolo suo di ieri, mi pare, sul Corriere della Sera, che si intitolava Regioni, la giungla dei privilegi, in Sicilia e Sardegna stipendi record, quindi non solo a livello di politica centrale, no, del Parlamento, e poi ci sono anche tutti i burocrati di Stato, ragionieri, consulenti. Ecco. Guarda, le regioni sono uno scandalo. Le regioni a statuto speciale sono in particolare uno scandalo. Infatti dice che è stata una specie poi di deriva questa cosa dello statuto speciale, che ha funzionato in modo contrario. Per esempio dice il governatore siciliano Raffaele Lombardo, visto che si parla tanto anche dei forconi, a proteste in Sicilia eccetera, alla guida di una regione con un numero di abitanti pressoché identico a quello del Veneto ma con un costo della vita inferiore del 9,4%, Lombardo porta a casa fra indennità e rimborsi il 43% in più del suo collega Luca Zaia del Veneto, 170.319 euro netti l'anno contro 118.703 di Zaia, senza considerare poi la differenza abissale nella ricchezza di quei due territori, tra Sicilia e Veneto. Il prodotto interno lordo del Veneto, scrive Rizzo, è del 75% superiore a quello della Sicilia. Ha senso poi, dice, che un consigliere regionale molisano, dove la vita costa il 32,8% in meno, intaschi ogni mese fra indennità e rimborsi vari 10.125 euro netti, un consigliere molisano al mese, contro gli 8.639 del suo collega della Liguria, e fa tutta una serie di esempi, no? Veramente scandalosi, quindi anche a livello regionale. Voglio chiederti, prima di sentire Paolo da Palermo, ancora un attimo di pazienza Paolo, sulla storia di Bossi che minaccia Berlusconi di far cadere il governo lombardo, quindi di Formigoni, se Berlusconi non fa cadere Monti. Ora, ci si può chiedere se lui ritiene, Bossi, così come ha detto, che la regione Lombardia è piena di inquisiti, perché la pone come diciamo il far cadere da parte di Berlusconi il governo Monti come ragione per cui lui tiene su o non tiene su, se ritiene che effettivamente il Consiglio regionale sia pieno di inquisiti, perché non lo fa automaticamente cadere, ma come condizione, ecco, non mi veniva il termine. A questa valutazione della morale e dell'etica subordinata all'interesse politico, ecco, quindi ecco. È questo che veramente fa un po' specie. Ma devo dire che ormai siamo abituati alle sparate di Bossi e credo che sia giunto il momento di invertire i ruoli, cioè è giusto che il centrodestra e Berlusconi per primo dicano a Bossi paesi che o ripudiano questo tipo di linguaggio, ripudiano l'idea della secessione, accettano di essere italiani e ritengono la Padania soltanto un'entità culturale all'interno del nostro paese, oppure non ci alliamo più con voi. Cioè, sarebbe bene che si invertisse questo meccanismo, cioè questo ricatto permanente della Lega nel nome della quantità dei voti che può spostare è ormai diventato insopportabile, inaccettabile, e quindi credo che il centrodestra, a costo di rischiare anche per il suo avvenire, debba rimettere in gioco questa partita, ricordando alla Lega che le condizioni che ha avuto di visibilità, di governo, che ha ottenuto grazie all'alleanza col centrodestra, sono irripetibili, e quindi se dovesse rompere quell'alleanza alla Lega non resterebbe che un ruolo di opposizione marginale, e quindi credo che questo discorso si possa fare anche perentoriamente a Bossi. Mentre attendiamo che sia fatto in modo perentorio, Paolo da Palermo, a te la parola adesso, Paolo. Buongiorno. Allora, il mio intervento proprio si aggancia perfettamente all'argomentazione che insomma avevate in corso. Agenzie di rating, a me mi sembrano che siano più delle sortite per giustificare le decisioni a cui è costretto a prendere il presidente Monti e tutto il suo governo. Un po' come a dire, italiani, avete poco da protestare, avete poco da dire perché vi abbiamo declassato, ma se non ci fosse stato Monti vi avremmo declassato maggiormente. Da qui mi viene da pensare che le agenzie di rating non sono del tutto autonome, ma che siano, cioè, tu stai dicendo che sono pilotate anche nel loro genere. Adesso mi perdoni, adesso un'idea un po' complottista, non so fino a che punto possa essere valida, però come diceva bene il nostro Marcello amico, adesso non mi ricordo, ecco, sì. A me Monti sembra più un commissario che un presidente del Consiglio. Per quanto riguarda le sortite di Bossi, avrebbe potuto, come dire, far arrestare Cosentino con tutte le conseguenze, e avrebbe potuto far cadere lì il governo. Quindi io penso che ci sia una regia a livello più alto. Questa è la mia idea e volevo sapere cosa ne pensava il nostro. Ed è chiara, però Paolo, visto che tu chiami da Palermo, non ti mollo in questo momento, perché mi dici anche che cosa pensi e che cosa hai capito di tutta questa protesta enorme di buona parte della Sicilia, del movimento dei forconi, degli autotrasportatori. Che hai capito e cosa pensi? Io ho capito che c'è della gente che ha dei costi insostenibili per quanto riguarda il loro lavoro. È chiaro che poi, come in tutte le categorie, ci possano essere delle infiltrazioni, se a questo che illude. Però io le dico una cosa, oggi ho fatto Palermo-Trapani-Trapani-Palermo, non mi sono bastate 40 euro di diesel. Io penso che le dimostranze sono sacrosante. E che se c'è qualche infiltrazione, qualcosa, quello là è un compito che dovrebbe interessare le forze dell'ordine e alla magistratura, ma che si deve lasciare protestare chi ne ha bisogno. Grazie Paolo. Francesco da Roma. Buongiorno, chiedo scusa anche io per la voce roca. Che ti è successo, Francesco? Niente, sono un po' di Hai voce cantato? Ah. Volevo porre un problema sulla Costa Crociere, che non ho sentito in giro. Ho sentito alcuni ammiragli in televisione parlare della solitudine del comandante nelle decisioni. Ma come mai al giorno d'oggi, nel 2012, un comandante da solo deve prendere decisioni sulla vita e sulla morte di quasi 5.000 persone e di tutta la salvaguardia di una costa? Dove l'hai letta questa cosa della solitudine? Perché io invece leggevo che c'era tutta una... Perché l'ho sentita in TV, guardi, sulla RAI mi pare, non ricordo se ieri o avantieri, c'era un ammiraglio che parlava del comandante che deve prendere in solitudine le decisioni. Io stavo pensando, se il comandante avesse aspettato un'altra ora, i morti sarebbero aumentati con uno zero dietro, anche di più, cioè, è possibile che al giorno d'oggi, dico, siamo ancora rimasti come all'epoca dell'uomo primitivo? A me, Francesco, è il capo branco. No, ho capito cosa vuoi dire, effettivamente non sarebbe corretto e opportuno, però da quello che leggevo anche ieri, c'è tutta una catena di comando, una serie di ufficiali che poi nelle deposizioni che sono state fatte in questi giorni ai PM, ai magistrati, dicevano proprio testualmente: noi abbiamo detto di lanciare l'allarme, noi abbiamo detto di lanciare l'abbandono nave, una serie di cose, e lui continuava imperterrito Schettino, insomma, nel suo temporeggiare, nell'essere indeciso, nel camuffare la questione, nel dire anche delle bugie, c'è un blackout, ma in realtà va tutto bene, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, aveva una serie di persone intorno a lui che potevano aiutare a prendere una decisione, che anzi l'avrebbero spinto, pare, dalle deposizioni, e poi lui ha continuato invece sulla sua strada. E cosa vuoi commentare, Marcello Veneziani, questi due interventi? Ma su quest'ultimo direi che la responsabilità ultima spetta al comandante, ma non è che il comandante decide in assoluta solitudine. Certo. La decisione finale certo spetta solo a lui, e sarebbe assurdo che si facesse, come dire, un'assemblea condominiale o si andasse ai voti in un momento di emergenza. È bene che ci sia questa responsabilità, però naturalmente bisogna anche sentire tutti gli altri soggetti significativi quando c'è una manovra in corso, e devo dire che in questo caso forse è mancata anche la capacità, la possibilità di ribellarsi da parte di alcuni. Se qualcuno aveva la certezza di una situazione di emergenza che invece non percepiva il comandante, beh, avrebbe dovuto a quel punto forzarlo o comunque irrompere nella sua stanza, nella plancia di comando, e dire che qui stanno morendo delle persone, o ti decidi tu o lo facciamo noi assumendoci tutte le responsabilità del caso. Quindi ecco, questo credo che sia un criterio da valutare. Sul fatto che ci sia il comandante che alla fine decide, beh, credo che sia una norma antica che di solito funziona, e quindi non possiamo rimettere in discussione questo impianto, insomma, credo che sia giusto. Per quanto riguarda invece l'altra questione, le agenzie di rating, beh, sulle agenzie di rating anch'io ho i sospetti che non siano delle agenzie, come dire, etiche di beneficenza, che si limitano a dire la verità costi quel che costi. Sono agenzie che rispondono naturalmente a macro interessi internazionali, che cercano di far pesare il loro potere, così come non escludo la subordinata, cioè l'idea ulteriore che alle volte si prendono a pretesto gli imperativi imperscrutabili di queste agenzie di rating per fare ingoiare ai cittadini provvedimenti molto pesanti che altrimenti non sarebbero stati accettati. Quindi è anche vero tutto questo. Non credo che in questo c'entri Bossi, ecco, questo per dire alla fine, cioè Bossi risponde alle, come dire, alle bizzose strategie personali, ecco, non credo che Bossi sia, come dire, manovrato da qualche potere internazionale, no, anche perché mi preoccuperei di avere un potere internazionale che la pensa come boss, insomma. Beh, 800 24 00 24, prima di collegarci con un altro pianeta, sapete, l'unico programma nell'universo questo, collegarsi con un altro pianeta, e sta preparando il collegamento Pietro La Corte alla parte tecnica, appena ce l'abbiamo. Però c'è il collegamento adesso invece col numero verde, come sempre, tutta la trasmissione, 800 24 00 24 con Matteo da Parma. Che dici, Matteo? Ciao Roberta, ciao, buona giornata. Grazie a te. Niente, volevo commentare la notizia che ho visto passare un po' sotto traccia, che l'Unione Europea avrebbe chiesto alla Grecia di rinunciare alla propria sovranità fiscale per quanto riguarda le prossime decisioni. Io personalmente non sono molto d'accordo, nel senso che c'è una domanda che tutti non si fanno, che è la più banale di tutti. Quando si crea il denaro, di chi è la proprietà della moneta? C'è stata un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Di Pietro. Siccome noi sappiamo che ormai il denaro non è più legato alle riserve d'oro, già dal 1970 con la fine del commercio standard da parte di Nixon, praticamente è carta straccia, quindi il valore non lo danno le banche, bensì lo dà la società che accetta in pagamento queste cose. Le banche centrali, soprattutto, che sono private, lucrano su questo, stampando una banconota da 100 euro, spendono 30 centesimi e quindi lucrano sulla differenza del valore nominale, non dando niente in cambio, perché non hanno valore euro dietro, non hanno nulla, e si appropriano di questo valore indebitando gli stati. E questo è il vero nocciolo, il problema della questione economica. Matteo, che fai nella vita tu? Io sono un operaio e lavoro in fabbrica, però sono laureato in giurisprudenza. Devo dire che hai una visione piuttosto complessa, diciamo, vai un po' dentro dei dettagli tecnici che poi vediamo dopo se Marcello Veneziani vuole approfondire. Come mai da laureato in giurisprudenza fai l'operaio? Perché ho avuto un po' varie vicissitudini, mi sono sposato prima di laurearmi e quindi ho dovuto fare... Quindi sei uno sfigato, sei uno sfigato anche tu, Matteo, sei uno sfigato? Sì, come il dottor Mastone, per adesso, sì. Esatto. Poi chiediamo a Marcello Veneziani che ne pensa di questa storia che ha suscitato polemiche, del sottosegretario Martone, che ha detto, lo avete sentito, chi si laurea dopo i 28 anni è uno sfigato. Matteo, tu non lo sai per niente, mi sembra che sia uno che si dia molto da fare e anche molto pensante. Grazie Matteo. Prego, arrivederci. Grazie Matteo. Pronto il collegamento? Pietro, possiamo collegarci, sì. Riflessioni da Marte. Guardando e riguardando col telescopio il globo terracqueo da quassù, da Marte, il paese che più colpisce l'attenzione, e scusate se è un po' sempre lo stesso, è quello italico. Un paese pieno di caratteristiche di impareggiabile livello, e quel che è più pittoresco e altresì avvincente è che essi sono caratteristiche a loro insaputa, naturalmente. Un paese assai composito, insomma, più precisamente, a sentire osservatori di varia natura, un paese, l'Italia, non più di santi, poeti e navigatori, ma di sfigati, schettini e mezze cartucce. E dopo i ministri e sottoministri che si ritrovano tra capo e collo come piovute dalla stratosfera al pari di asteroidi, dimore con vista Colosseo, vacanze da 1.500 euro a notte, colazione esclusa, e poi comandanti innamorati degli onori ma rifuggenti gli oneri, che scivolano come schettini nelle scialuppe appena la nave fa acqua. Insomma, dopo tutti questi straordinari caratteristi, uno penserebbe che l'italica creatività non può andare oltre, non può superare se stessa. E invece, a parte il monumento che presto bisognerà erigere non più al milite ignoto, ma a chi è ormai più ignoto di lui, cioè l'evasore ignoto, dicevo, avete presente il console italiano a Tokyo, Vattani, finito nella bufera per la sua scatenata partecipazione a un concerto fascio rock organizzato da Casa Pound, in cui inneggiava la bandiera nera e intonava versi contro i pacifisti? Ebbene, come si è difeso il console Vattani in questi giorni? Ha detto forse che è scivolato sul concerto come su una scialuppa? Ma no, ne ha trovata tuttavia un'altra di tutto rispetto. Durante quel concerto, ha semplicemente affermato, non ero in servizio. Uomo di cultura, probabilmente il console si sarà appassionato in gioventù a Dr. Jekyll, Mr. Hyde, o forse avrà letto troppi fumetti, pensando magari di essere come l'uomo ragno, che quando smette la sua tutina rossa e blu piena di ragnatele, può tornare un bamboccio qualunque. Ma pescando nella giostra della penisola, da quassù, sempre col telescopio, sempre in questa settimana, ecco avanzare un'altra fulgida figura italica, il viceprefetto di Torino. Che cosa escogita l'autorevole autorità? Becca una multa, come può capitare del resto a qualsiasi cittadino, da parte della polizia municipale. E che cosa fa, secondo voi, il viceprefetto? Fa ricorso a se stesso, essendo appunto viceprefetto, e generosamente accoglie il suo stesso ricorso, indi si toglie soddisfatto la multa. Avete presente quelle commedie degli equivoci dove lo stesso attore strampalato si cala in più ruoli cambiandosi magari vestito e parrucca? E cosa risponde il viceprefetto a chi reputa piuttosto truffaldina questa decisione? Dice, è stata una scelta di coerenza e di trasparenza. E pare che dicendolo non sia arrossito nemmeno un po'. Facciamo finta che tutto va bene. Sempre qui, ritornati coi piedi per terra, naturalmente. Tra poco abbiamo una piccola pausa, ma ci sono molti ascoltatori, naturalmente, all'800 24 0024, telefonate bollenti che sta prendendo Jean Gabriel. Tra poco c'è Pier Gianni da Pistoia e poi vorrei dare un po' di spazio dopo anche ai molti che sono intervenuti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, su varie polemiche. Tra le tante polemiche di questi giorni, poi sentiamo dopo la pausa anche Marcello Veneziani cosa pensa, c'è per esempio quella sull'immigrazione. Sapete che Grillo è venuto fuori con questa frase che ha scatenato polemiche anche all'interno del suo movimento 5 Stelle, dicendo che è un'assurdità lo ius soli, cioè il diritto di avere la cittadinanza una volta che nasci su quel territorio. Quindi dice, dare questo ius soli agli immigrati, ai figli degli immigrati, è un'assurdità. E appunto c'è stata un'esplosione di proteste e di polemiche. C'è una proposta poi interessante di Giovanni Sartori, che dopo vi accennerò, su una mediazione, diciamo, tra il diritto di cittadinanza e qualcosa di simile. Poi c'è la grossa polemica scoppiata anche ieri, dopo che il settimanale Der Spiegel avrebbe scritto che tutti gli italiani sono un po' degli schettini. Allora il direttore del giornale Sallusti ha detto: a noi schettino, a voi Auschwitz, insomma, una cosa un po' pesante, che hanno molto commentato anche su Facebook. E poi questa storia della laurea, dopo che ci si laurea dopo i 28 anni, si è effettivamente sfigati? 800 24 0024. Prima di riprendere con Marcello, volevo sentire Pier Gianni da Pistoia. Pronto? Un grande respiro, devi dire tante cose, mi sa, Pier Gianni, questa cosa mi preoccupa. No, perché stavo passeggiando. Ah, bene. Dove passeggi? Dunque, a Pistoia. Nella campagna. Nella campagna pistoiese. Qua giù è tutto pieno di di vivai, di piante. Si può passeggiare nella campagna. Bene, ma te la godi. Facci sentire questo respiro pulito, allora. Vai. Penso, immagino. Allora, no? Bene. Io, sì. Sì. Io ho chiamato perché ho letto sul giornale che Radio Padania ha lanciato un sondaggio per sapere cosa il popolo padano pensava del suo leader, Bossi. Il risultato è stato che sembra il 75% hanno detto che forse è il momento di mandarlo a riposo, però poi hanno nascosto subito i risultati del sondaggio. Guarda, io non ne sono a conoscenza, sinceramente. So che comunque negli ultimi tempi probabilmente sono un po' più salite le quotazioni di Maroni e parecchio scese quelle di Bossi, anche proprio dentro la stessa, nella base, insomma, che vota Lega. Anche alla manifestazione che c'è stata di recente a Milano, sembra che inneggiassero più a Maroni che a Bossi, qualcuno gli sta chiedendo di fare un passo indietro. Vedremo come va a finire, quindi poi l'abbiano nascosto o meno non ti so dire. Ma dimmi una cosa, Pier Gianni, invece, sulla questione, tu l'hai sentita questa polemica con Sallusti, direttore del giornale, che ha detto a Der Spiegel: noi abbiamo gli schettino, voi tenetevi Auschwitz? Sono molto d'accordo con lui. Sei d'accordo con lui? Sì. Posso aggiungere una cosa? Sì, sì, certo. Ascoltavo quello che diceva il commentatore veneziano. Sì, veneziani? In merito alle regioni a statuto straordinario. Non ci dimentichiamo del Trentino Alto Adige, che però funziona bene. Sì, anche se il presidente lì della provincia di Bolzano, leggevo anche lì delle cifre pazzesche, lui dice che lavora molte ore, però Obama, che penso che anche lui è il capo degli Stati Uniti, lavori parecchio, prende qualcosina meno di lui. Insomma, no, diciamo che si potrebbe far bene con un pochino meno di patrimonio, accontentandosi di qualche spicciolo. Posso essere d'accordo su quello che stai dicendo, però dico che laggiù dividono con tutta la popolazione quelle che sono le entrate regionali. Ma lì diciamo che almeno in Trentino le cose effettivamente vanno piuttosto bene. Pier Gianni, ti ringrazio e buona passeggiata, allora. Senti, pomeriggio. Come stai ascoltando tu, con apparecchiature? Ho una radiolina con la cuffia. Bene, bene, bene. Okay. Bravo, mi fa molto piacere. Fai sempre così, immagino, il sabato, no? Dalle 14 certo, alle 15. Molto certo. Bravo, era la risposta che volevo, grazie. Vai, buon pomeriggio. Ciao Pier Gianni, anche a te. Marcello, allora, ti leggo adesso alcuni commenti su Facebook a proposito di questa polemica, no? E poi mi dici cosa ne pensi tu, visto che sei editorialista del giornale stesso di Sallusti. Allora, Corrado scrive: hanno fatto gara a chi scriveva la cosa più miserabile. Sandro, non c'è risposta più efficace e che ti schernisce dell'indifferenza. Quindi lui dice: bisogna scendere l'indifferenza, quindi sarebbe stato meglio ignorare la notizia. Emilio: non ho mai stimato il giornale e il suo direttore, polemica scomposta e distruttiva, molto più semplice e appropriato ricordare ai tedeschi la tragedia di Duisdorf del 2010, cioè quando c'è stata la Love Parade, che erano morti una ventina di ragazzi, compresa una italiana. Giulia: di fronte a tante atrocità io non condannerei il giornale, anche se è andato giù pesante. Andrea: una vera porcheria. Wally: un accostamento infelice, scrive. Francesco: io dico che Sallusti ne ha scritte di peggio. E poi molti altri. Che dici tu? Ma io dico che si può condividere o meno la, diciamo, l'esagerazione un po' concitata del titolo, però io credo che la sostanza sia molto veritiera. Non dimentichiamo che un settimanale autorevole come Der Spiegel ha parlato degli italiani come di una razza di codardi ed ha come dire, elevato il caso Schettino a paradigma degli italiani. E Allora mi pare giusto dire che se si fanno questi discorsi generici, poi si finisce a dire che i tedeschi si identificano con Auschwitz. È una forzatura, mi rendo conto, ma voglio dire, forzatura per forzatura si arriva a quello. Non bisogna dimenticare la responsabilità individuale, non si possono fare più questi discorsi etnici, perché voglio dire, italiano e schettino, ma italiani sono stati anche i tanti che hanno aiutato generosamente a salvarsi i 4.200 superstiti, quindi voglio dire, è così come in tanti altri casi, quindi mi sembra insomma del tutto fuori luogo questa polemica. Il problema è che c'è naturalmente una prevenzione fortissima nei confronti del giornale, e il giornale alle volte, diciamo, ha dei titoli che sono in effetti un po' sopra le righe, c'è una logica, vogliono, diciamo, colpire di fare un effetto. Po' l'attenzione, fa l'effetto, sì, appunto, c'è la logica dell'effetto, però diciamo pure che la sostanza del fatto è veritiera, insomma. Sentiamo Grazia da Teramo, sempre all'800 24 00 24. Grazia. Ciao Roberta. Infatti per me la frase che ha scritto Salustri la trovo primitiva, perché c'è una differenza di anni, di 70 anni di cultura, e non trovo che è giusto confrontare Auschwitz con Schettino, che poi Auschwitz, lì c'era Hitler che dava le leggi, mentre Schettino, un comandante che viene pagato per la sua responsabilità di portare la nave dei passeggeri in vacanza, di portarli a divertire, ritornare sani e salvi a casa e non a giocare o a scherzare o a fare l'inchino, trovo io. Poi un'altra cosa che Salustri forse ha dimenticato, che i tedeschi si sono messi in gioco, anche la seconda generazione, hanno pagato e pagano uno fior di quattrini agli ebrei, e si sono messi in gioco. E poi non questi soldi adesso non è che riparano comunque, no? Una tragedia così immane come quella, grazie a Certo, ma poi un'altra cosa anche desidero ricordare: Onna è stata costruita dopo il terremoto dai tedeschi, L'Aquila è ancora distrutta. È il paese che è andato completamente raso al suolo vicino all'Aquila, no? Con il terremoto. Sì, Onna, nella provincia dell'Aquila, Onna, esatto, sì. Sono stati i tedeschi a costruirla. Allora, non lo so, io non l'ho trovata molto molto primitiva sì, un'offesa, non era giusto. Ci sono, in questi 70 anni in Germania sono successe altre cose dove si poteva ben confrontare. Sì, è vero, questo si può riconoscere, è stata un qualcosa che va ricordato costantemente, perché non si ripete, è una memoria che va tenuta sempre viva. Però per quanto riguarda i tedeschi nuovi, la cosa, no, andrebbe messa, diciamo, archiviata, nel senso che il popolo di adesso si spera sia un popolo diverso, generazioni che si immagina abbiano fatto i conti con quello che è successo, quindi rinfacciarglielo in questo modo forse ha poco senso. Si poteva trovare effettivamente qualche altro episodio, qualche altra ragione di critica. Grazie, tu sei vagamente tedesca? Io ho vissuto 26 anni in Germania. Ah. Penso che solo le persone che sono cresciute con due culture dovrebbero avere, non diciamo il diritto, ma la possibilità di vedere i pro e i contra, ma uno che è cresciuto solo con una cultura non dovrebbe permettersi di dire queste forti frasi su un altro popolo che non conosce la cultura, che non ha vissuto là. Grazie, ma al di là, insomma, delle due culture, effettivamente poi non è neanche corretto, appunto, come si diceva, dare a tutti gli italiani dello Schettino. Ci si può scherzare, possiamo scherzarci noi italiani, anche con la parte drammatica che questa vicenda ha, però, ecco, detto dai tedeschi. Volevo sentire Antonio da Bologna, mi dici solo l'argomento. Volevo parlare riguardo degli scioperi dei camionisti e dei taxisti. Io faccio una premessa: sono un operaio metalmeccanico, lavoro in fabbrica da 31 anni e mi sento accomunato. C'è una cosa, credo, che accomuni la mia categoria e tante altre categorie: siamo tutta gente che o abbiamo abbandonato gli studi oppure abbiamo fatto degli studi che non è che ci permettono di fare chissà quali cose. Allora, secondo voi è normale che in un paese come l'Italia un ricercatore dell'universitario guadagni meno di un camionista, meno di un taxista e addirittura a volte anche meno di quello che guadagno io? Perché io non ho nessun problema a dire che guadagno quasi 1.400 euro al mese, ma conosco ragazzi che iniziano, che fanno i ricercatori, che purtroppo, purtroppo portano a casa molto meno. Beh, molto nobile detto da parte tua questa cosa. Comunque. Devo essere onesto, cioè, c'è qualcosa che non funziona in questo paese. Allora, se la futura classe dirigente, cioè coloro che vanno all'università, coloro che hanno una laurea, la riduciamo in condizioni di guadagnare, con tutto il rispetto parlando, di meno dei taxisti e dei camionisti, che è gente che si fa comunque un mazzo enorme, non voglio certo. mica dire che è gente che non fa nulla. Mi viene da dire, come si dice qua a Bologna, ma come siamo messi? Ma come siamo messi, Antonio? No, il problema è quello. E poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa, e questo lo dico ai politici, che loro vanno sempre in cerca di voti. Di questi tempi in Italia non dobbiamo preoccuparci degli stranieri che arrivano, dobbiamo preoccuparci degli italiani che se ne vanno. Stiamo perdendo un sacco di talenti, di ragazzi giovani che se ne vanno all'estero a studiare, che vanno all'estero a lavorare. Non abbiamo futuro. Se andiamo avanti di questo passo, possiamo fare tutte le manovre possibili e immaginabili, non abbiamo futuro. Grazie tutto Antonio. Vorrei sapere brevemente da Marcello, prima poi di passare alla prossima ospite, cosa ne pensi, Marcello, brevemente? Ma io condivido in pieno quello che ha detto adesso il nostro ascoltatore, sia quest'ultima osservazione sulla emergenza emigrazione intellettuale, sia sul problema che i ricercatori sono pagati poco. Non è questione di paragone con i camionisti e con gli altri, non sono gli altre categorie ad essere pagate in modo esorbitante, sono i ricercatori ad essere pagati poco, insomma, ed è in effetti una vera emergenza. Un altro punto di vista adesso, sentiamo la nostra Maria Laura Rudotà del Corriere della Sera. Maria Laura, buongiorno. Da quale angolazione ci parli questa settimana? Dall'angolazione della, diciamo, sfigata al 30%. Sei sfigata al 30%? Beh, è già una buona. Non lo so, ho fatto due conti, mi sono laureata 2 anni fuori corso, quindi sono un pochino sfigata. Sfigatella, anch'io. Sì, sì, pochino, sì. Sfigatella. È stato un dibattito molto feroce, anche online, se ne è discusso molto. Una cosa che però non si è detta è quella che diceva una mia saggia compagna di università molti anni fa, che in fila per un esame disse: ma che cavolo, questa non è un'università, è un quagliodromo, perché sia Michel Martone, bel nome, che tutti quelli che hanno reagito non hanno esaminato un elemento importante, che fare l'università in Italia è un po' una gara di salto della quaglia. È abbastanza vero. È esattamente l'Inghilterra, dove entri, matricola e ti viene assegnato un tutor che ti segue. Molti studenti, specialmente quelli che di famiglia non conoscono professori, che magari arrivano da fuori, sono completamente disorientati, è vero, sono è un labirinto, disorientati e si perdono. Sì, sì. Sono d'accordo. Per cui c'è anche questo elemento da tener conto, cioè, forse non dovremmo solo pensare cosa abbiamo fatto noi o facciamo all'università, ma come sono fatte le università fa per noi. Siamo d'accordo, rovesciando il noto detto. Grazie Maria Laura, rovesciando un po' sfigatamente siamo arrivati a questo punto, e tra poco c'è la nostra Valeria della Valle, ma prima io intanto ritorno sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, adesso vediamo se riesco a leggere qualche altro commento, che sono stati molti anche questa settimana, ma sulla questione immigrazione, Marcello, sai appunto, no, la polemica invece è un'altra delle polemiche con Grillo, che ha detto, come dicevo prima, non ha senso dare la cittadinanza alle seconde generazioni di immigrati che nascono in Italia. C'è Giovanni Sartori che giovedì nel suo editoriale sul Corriere della Sera dice: io ho una proposta, una soluzione di buon senso, e dice: vorrei proporre un terzo principio tra ius soli e un'altra forma, insomma, di diritto, la concessione della residenza permanente trasferibile ai figli, ma pur sempre revocabile, cioè secondo qualcosa gliela leviamo, però lui la chiamerebbe la residenza permanente. Che ne pensi? Ah, mi sembra un po' macchinosa, nel senso che tra l'altro non si conosce nella giurisprudenza internazionale, da quel che so, insomma, ecco. E mi pare invece che l'osservazione che faceva Beppe Grillo possa essere condivisibile o meno, ma non va assolutamente demonizzata come una sorta di rifiuto degli immigrati. Si tratta di stabilire un criterio, cioè se una persona che nasce qui, anche se da genitori che non sono italiani, debba essere considerato italiano o debba prendere invece la cittadinanza dei suoi genitori. Insomma, è quello che si chiama ius sanguinis, cioè ho il diritto per via del sangue o del suolo. Ecco, sono due criteri che hanno pari legittimità, che insomma possono essere discussi, rielaborati, si possono cercare soluzioni, insomma io credo che sia un discorso serio da fare, non ho una ricetta e penso che anche l'idea di assegnare la cittadinanza a chi nasce qui pur da genitori stranieri abbia una sua plausibilità, però ecco vorrei uscire subito da questa logica che chi non sostiene questa tesi debba essere inevitabilmente xenofobo, razzista e così via. Non credo che Grillo avrà tanti altri difetti, Grillo, ma non penso che ne abbia di questi, insomma, ecco. Quindi uscirei da quella logica. Sto guardando la pagina Facebook in diretta in questo momento, mi è riuscito col computer perché si impalla sempre questo computer, e dice Martin, Roberta, sono Matteo da Parma, ho chiamato poco fa, avrei gradito un tuo commento e del signor Veneziani sull'argomento della sovranità monetaria, però andremo un po' fuori, perdonami, deraglieremo un tantino, è un argomento molto interessante, siamo un po' in corsa, vediamo se verso la fine ci riusciamo, perché adesso devo andare da Valeria della Valle, da Sapienza di Roma, linguista esimia alla quale io voglio porre la parola della settimana, la sua esegesi, la sua interpretazione, la sua sfigato. Sfigato, allora intanto questa parola compare in tutti i vocabolari della lingua italiana ed è una parola che ha cominciato a diffondersi negli anni 80, forse anche alla fine degli anni 70. Che cosa significa? Più o meno lo sappiamo tutti, si va da sfortunato, iellato, oppure indica anche una persona che riscuote scarso successo, che vale poco, fino al significato di brutto, sgradevole, soprattutto con riferimento a un luogo. Ora, da dove viene la parola? Viene dalla parola sfiga, e cioè sfortuna, iella. E naturalmente io ora potrei continuare l'etimologia citando anche la parola d'origine, quella dalla quale è derivato tutto. Si può dire? Ma mi fermo perché le parole vanno usate con cautela e con rispetto, cioè proprio quello che non ha fatto il sottosegretario Martone, e dimostrando con l'uso di una parola totalmente inadatta, inappropriata, che non basta vincere un concorso per essere una persona rispettabile, civile e istruita. Grazie Valeria della Valle, se lo dice lei che è docente universitaria, siamo a posto. Grazie. Ciao Valeria della Valle. E tra le tante polemiche, intanto ringrazio tutti quelli che stanno scrivendo anche in diretta sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Guarderò anche i vostri messaggi, i messaggi anche al 349-238-6666. Ecco, l'ho detto alla fine perché non guardo in diretta anche gli sms, ma li guardo poi dopo, se no sarebbe veramente troppo, già mi tocca parlare veloce, che è un po' contro natura. E volevo chiederti, Marcello Veneziani, sulla prima pagina del Corriere oggi, Milano, aiuti per le crisi, per la crisi anche alle coppie gay, nello stesso PD ci sono polemiche, ma Pisapia va avanti anche con il registro delle unioni civili. Proprio giorni fa a Gubbio, dove c'è comunque al governo il PD, invece lo hanno eliminato questo registro delle unioni civili. Cosa ne pensi di aiuti alle coppie gay con la crisi? A parte il fatto che appunto questi registri sono stati eliminati perché nessuno si iscriveva, quindi sono stati un flop. Forse pochi, non nessuno, però sì, ma voglio dire, sono stati un flop clamoroso in quasi tutta Italia. Ma a parte questo, cioè voglio dire, noi dobbiamo distinguere tra la sfera delle libertà, dei diritti, e ciascuno è libero di unirsi con chi crede, all'impegno pubblico istituzionale di promuovere la famiglia, che invece è un bene condiviso. Però io dico che un diritto non toglie l'altro, ma siccome siamo in corsa, Marcello, ne riparliamo più approfonditamente un'altra volta, visto che sta per finire non solo il tempo ma anche il mondo nel 2012, cosa salveresti della storia umana? Dimmi una cosa che ti viene in mente, anche la pizza, qualsiasi cosa. Vorrei dire i libri, ma sarebbe ingiusto, ma dico i libri, va, proprio perché sono un titolo in particolare. Un titolo in particolare, un libro in particolare che non sia il tuo, l'opera omnia di Platone. Molto bene. Allora ispiriamoci a Platone mentre il mondo man mano si consuma. Grazie a Marcello Veneziani, grazie, ciao Marcello. Vi ricordo che potete risentire poi la trasmissione su radio24.it o sulla pagina Facebook. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.